10:46, andiamo in diretta dalla piazza, Piazza Vittorio, ci sei? Sì, pronto, eccoci. Buongiorno. Allora, raccontaci buongiorno. Un po', questa è la prima corrispondenza che facciamo, insomma, dalla piazza, quindi raccontaci sì. Com'è. Va bene, allora iniziamo con la frase canonica che il corteo si sta disponendo e effettivamente già ci sono migliaia di persone in piazza e occupiamo praticamente tutto il lato che da Via dello Statuto poi prosegue andando verso, diciamo, Via Conteverde, Via Le Manzoni, e quindi già varie migliaia di persone in piazza, secondo me, devo dire, e ancora non si accenna a muoversi. La composizione è, insomma, comunque la scommessa ad ora, quella lanciata dalla campagna Mai con Salvini, quindi un'iniziativa di carattere esclusivamente cittadino che Balbasso in maniera auto-organizzata riuscisse a portare a mobilitarsi una Roma comunque che la vede decisamente in maniera diversa da Salvini, la Roma che non si è fatta fregare dalla propaganda leghista e squadrista di Casa Pound che oggi sono in piazza Congiunti a Piazza del Popolo, è in parte riuscita, è stata raccolta. Ovviamente ci aspettiamo che anche la bella giornata faccia sciogliere le riserve di chi ancora era indeciso. Le aspettiamo tutti in piazza, ancora dobbiamo partire. Chi non vuole raggiungerci a Piazza Vittorio, sta facendo tardi, potrà farlo lungo il percorso che passerà per via Cavour. E sicuramente, avevamo già dato notizia che Piazza Vittorio la metro è chiusa, quindi ovviamente invitiamo a questo punto a raggiungerci dalla metro A Manzoni o dalla metro B di Cavour. E niente, a questo punto non ci resta che aspettare la partenza e si stanno susseguendo gli interventi al camion. Senti, e cercare di... Dimmi. Ci puoi raccontare, visto che noi non vediamo ovviamente la piazza, gli striscioni, un po' gli spezzoni, insomma la composizione che finora si sta manifestando? Beh, guarda, sicuramente ovviamente gli striscioni più qualificanti sono quelli del camion di testa, che recitano quello slogan ripreso poi dall'hashtag che è viaggiato tantissimo Mai con Salvini, che è lo slogan che deturna in maniera palese quello il noi con Salvini, che invece lanciava il nuovo segretario della Lega e che è la parola d'ordine insieme a Renzi a casa della manifestazione di oggi e della campagna di sbarco verso il centro-sud del modello leghista. Mentre sull'altro lato del camion di testa campeggia un riferimento invece all'accoppiata dei due Mattei della Repubblica, Matteo Salvini appunto e Matteo Renzi, ovviamente alla manifestazione che opponendosi al modello leghista, alla retorica xenofoba, anti-immigrazione, a quella retorica della competizione sociale che anche attraverso la propaganda per le autonomie locali la Lega ha sempre promosso e non è che è alla quale non sta palesemente abdicando in questa fase di mutazione, comunque rilancia anche contro le politiche di austerity, il Jobs Act, lo Sblocca Italia e quelle che sono le mobilitazioni, le politiche che sono state portate avanti dal governo delle larghe intese guidato da Matteo Renzi e dal PD. Bisogna sottolineare che questa piazza è la piazza di chi finora ci ha sempre messo la faccia anche contro queste misure, non è una piazza prona ovviamente a una propaganda pro-governativa, va sottolineato perché ovviamente non penso che agli organizzatori andasse di essere accostati a una qualsivoglia propaganda filo governativa, filo larghe intese, tuttavia che il modello Salvini rappresenti insieme al Front Nazionale in Francia, al Badorata e a tante altre forze di estrema destra, non solo un pericolo perché poi l'hanno dimostrato in 15 anni di governo, hanno la totale, sono completamente favorevoli alle misure di precarizzazione, voglio dire, una delle più grosse contraddizioni è avere Maroni, ex ministro del lavoro ai tempi della legge 30 e oggi sbraitare contro la disoccupazione, la precarietà e l'austerity, una delle tante contraddizioni, ma in generale la Lega ha sempre dimostrato di essere favorevole dal pareggio di bilancio con legge costituzionale in poi, essere favorevole alle stesse politiche che oggi loro pensano di alla cui opposizione loro pensano di rappresentare. La piazza di oggi quindi è caratterizzata molto dalle lotte che finora si sono mobilitate anche contro l'austerity e Jobs Act, Sblocca Italia, dicevo, le grandi opere, bandiere no TAV, bandiere contro gli sfratti, striscioni sindacati di base. Sottolineerei, vista anche la contingenza, anche una bandiera basca, ricordare l'ennesimo caso basco a Roma dopo quello di Lander, un compagno basco che invece pochi giorni fa è stato nuovamente arrestato in Italia a Roma, e questo anche a sottolineare come un'altra delle ipocrisie della Lega è stata quella di rivendicare quei movimenti che non solo propongono un'autonomia delle comunità locali, ma propongono anche modelli sociali inclusivi, antirazzisti, egualitari, e fondamentalmente sono sempre stati vicini ai movimenti antifascisti e di liberazione in senso ovviamente ampio e non solo di presenza nazionale o locale. Insomma, è ad ora la competizione, e quindi l'unica cosa che posso fare è ribadire di, diciamo, non solo partecipare, ma partecipare alla manifestazione vuol dire anche non farsi intortare, non solo ovviamente al messaggio leghista, ma gli ascoltatori della radio non, diciamo, sono al di là sicuramente di queste suggestioni, ma anche di quelle possono essere le preoccupazioni dovute alla campagna mediatica della Questura di Roma, alla campagna criminalizzatrice seguita anche alle cariche di ieri pomeriggio a Piazzale Flaminio. Quella di oggi è una giornata popolare, è una giornata di massa che si sta già rivelando come tale, mentre il corteo ancora non è partito e già siamo in migliaia. Senti, ti volevo chiedere una curiosità, si vede, si nota la presenza di anche altre forze che hanno aderito, l'AMPI, SEL, si nota in piazza? Allora, sì, nel senso che l'AMPI è anche diciamo visibile attraverso bandiere, uno striscione al quale proprio sono accanto in questo momento, con una rappresentanza dei soci dell'associazione, quindi partigiani, parenti di partigiani e quanti altri animano la vita dell'associazione oggi. Di partiti, sì, a parte qualche faccia nota e referente, diciamo anche a sottolineare l'indipendenza di questa manifestazione, non si vedono se non veramente pochissime sparute bandiere. Va bene. Ti ringraziamo e niente, intanto buon proseguimento, noi ovviamente continueremo a seguire. Ci aggiorniamo in corso di manifestazione. Grazie. Un saluto. Sì, ciao.